insegnare, me li ha chiesto sempre puri, puri a me. Dentro Sassari, un segnale dentro un cittadino che ha avuto un dentro Sassari, e che altro segnale è? I segnali sono belli, loro, orgogliono, come li ho fatti io, che mi ascoltano dappertutto, lo dentro Sassari, allora, e guardiamo i coglioni, va. Io sono guardi, va, sono dentro Sassari, va. Ora so, segnale come sono. Allora il gatto, è tutto, gatto mi ha provato tutto. E io sono qua, non ho fatto, non ho chiesto per niente a nessuno. Perché io segnalo a mio, non sono uno stato. Perché mi ha fatto un altro tutto. E me ne spatto la mano di Sassari. Anche noi non siamo capiti. Che avessi io a Sassari e a Cosa. Se qualche dio non ci credo, me lo faccio vedere. E mi andrà a vedere dove? A tutti i libri, a Bonato. Se qualche dio vuole intervenire, perché non lo faccio, c'è qualche dio che vuole intervenire, intervenga. A me non interessa niente. Se io voglio chiudere la prenotazione, no? Come si dice? Se riesci a chiudere. Lo so. Come esistiamo a casa? Ma cosa vuoi che ti dica tu? Ah, dove tu vai? Come fai? C'è un argomento, non c'è nessuno. Avete portato che c'è uno che... Allora, attenzione, Pirelli 5, che anche uno che ascolta. Avanti. Non è mio. Non è mio. Qualche giorno magari che si sente in colpa, che non sa certe cose, non sa come li ascolti di quelle controllate, come si, ecco. Ehi, stai facendo bene tu lì. Che non sono propagati alla mia modulazione, oppure al mio segnale, e come lo vieranno, qualche giorno mi ascolta. Perché sono soltanti e non faccio l'ordine di nessuno. Tony, andrà bene con Boscara o come? E a tale culo di ballato, che saltando un altro parlato segreto, la roba dai. Che decide chi è? Chi è? Chi è? E chi è? Non ti preoccupare, già ti fanno visita. No, ma voi c'è questa cosa, non la faccio giù. Mi dà una fastidio, oggi. Già dico, da fastidio, già dico. Ma non ti preoccupare. Già la cattiamo sui verticali, la mettiamo su lì. Attento, Gianni, Capricorno, se ascolti a mia, cambia! Gianni, Capricorno, se ascolti a mia, io lo faccio, io lo ascolto, qui sono bene, mio. Attento, Capricorno. Attento, Capricorno, se ascolti a mia, cambia! Perché riprendi? Ah, ma deroso, ma dove sei a chiuso Capricorno? Ma non so, sai, come se ti facciamo lo tipo di coso, di segnale e di radio, da parte mia. Gaffa, gaffa, mi andrà bene vera. Non so perché, non ho detto, quando ho troppo radio, non mi hanno promesso che stanno andando. Adesso 27.015 che sono solo un'altra parola, mi sta l'attacquando e sono fuori problemi. Guarda da parte mia, perché? Non mi confermo. Gaffa, gaffa, no, adesso c'è bene tu. Vuoi sentire solo? Prendiamo un segnale. Lo segnale voi. Sono il segnale, lo segnalo solo. Ragano in cabeza, sono il segnale. Gappa, gappa, eh. Santiago 9:20, sì, da. Se mi dà la conferma di un segnale, un segnalito, muchacha, chiruquitos. Passare la torna, la buona lì, va bene, va là. Ho fatto la pernacchia. Come se vuoi che tu sei un coso, un amico cipi. Ho fatto la pernacchia, lo fanno bene che attore, ragazzo, vale che riesco, la male che riesco, la pesante per favore. Grazie. fa un segnale da Bibbia e non fai il segnale da persona. E stai facendo un segnale da coglione. Evidentemente non ti senti di uomo, però ti senti la palla e la proprio da coglione. Avanti il Bibbi. Chiudo. Come mai alle 10? posto sul 21. Evidentemente la fine non c'ha paura. Ma è l'amico della potenza. Se io ascolto via mia, cambio, basso. Avanti, l'amico più forte che si sente in frequenza, sulla 27. Mamo, dai, ti voglio sentire. Bello chiaro. Mamo, Binario 5, tieni ascoltato. Lo vorrei ascoltare. Non so perché, non so per chi, non so per lui. Ma tu sei fuori. No, non sono fuori, sono dentro. Chi è l'amico? Avanti, buonasera. Avanti l'amico e... chi ha detto che sono fuori? Avanti, buonasera. Anche tu ti senti di parlare? Avanti l'amico che sono fuori. Buonasera, ben sentito, buon tanto, buon tutto. Si sente che sei fuori di sera. La vita mia, binario 5, avanti. L'amico, buonasera, buon tutto. Non so se mi ascolti, dammi Roger. Evidentemente non sei contento di parlare sulla 27. Ti ringrazio, buon tutto e... Su binario 5 non ho paura di parlare oggi, abbiamo 6, giorno 6, 2010, non so chi deve modulare. Se tengono premuti oppure spremuti come il limone, non so perché non vogliono modulare. Avanti che vuole entrare, buonasera, ben sentito, dai, avanti. Avanti l'amico Santiago 1, ti ascolto e non so dove... a dove stai modulando. Certo. Sono massa di miserabili, proprio miserabili, mi vede meglio di voi. Alla vostra età, cazzo, non avevo le palle piene di modulare. Non so perché, hanno fatto adesso 2 su 5, qualcuno mi è venuto in mente che voleva modulare, che era proprio sulla potenza, me lo vorrei sfidare, avanti, no cosmes, no cammes, e poi dicono che i CB erano ubriachi, mi meraviglio di qualche duro, che si sentiva potente, eppure con un fatto e mezzo l'ho sconfitto. Se ti senti protetto da qualche cosa, dammi Roger. Non muore, non parli, non parli perché ti faccio paura. Ti faccio paura perché quelli CP che sono su lì sono a spromonte, del corso, dal monte. Lo farei. Hola, hola, non passano. Via Milano non passa. Gli altri segnali che mi arrivano dal mondo. Non... Ola, ola, santo Nicola. Non ci siamo capiti. Poi, l'amico che ti sentivi proprio più forte, mi ha fatto figura con un altro amico, un bella uno. Un bella... Ciao. Cominciarono che te ne vai a vedere più già. Ti dico il nome di chi sei, è quel nome che me l'ha detto. E chi sei? Non farne approfitti con me, perché se fai con me e stai sbagliando. E poi, se ti senti più forte, dammi conferma. Mamma mia, cambia parte. Non c'è nessuno in questo momento, cazzo, cosa sparete, 21, 25, niente. Niente, non so. E cosa, ho paura. Sì, faccio quello che devo fare una conversazione, altro la può fare. Senza problemi. Avanti, sono le 5, dai, in amo. Avanti, che vuole entrare? Sì, avanti. Avanti che vuole entrare, che è la sera, dai. Avanti che vuole entrare, che è la sera. A parlare così come parlate voi, non avete sete, lo sappia, cazzo, fate una cosa. Lasciate l'apparato dove è, cazzo, parlate in verticale, con parte bugiarata. Binario 5 per gli amici se ascoltate, cambia basso. Namos alla playa, namos alla playa. Oppure volete ascoltare un po' di musica? Non ci sono problemi. Comunque vorrei ascoltare il GP, di Forza di Sassari. Almeno me lo registro e sono contento, tanto, e sono felice e me ne sbatto di Beatrice. Namos a te, namos alla playa. Aio, bulldozer, fate sentire questa radio che c'hai. Sono il minimo che ti ascolto, che ti parlo, Sono il minimo che ti... che ti sto modulando. Ormai non c'è nessuno, tutto morto. Tutti morti siete, no, le cose diciamo lì, no, sono Napoli, no. Tutti morti sono. Un po' stornati. Aio, andiamo ossa. Facciamo sentire la 27 com'è. Com'ecco. Avanti il break. Avanti il break, amico, se ascolti a mia, cambia avanti. Avanti il break. Avanti il break. Com'ecco. Avanti il break. Mi ascolti l'amico, l'amico mi ascolti, del break, non mi ascolti, va fanculo, l'amico del break che ti ascoltava con un Santiago Lobby, avanti, Radio 5, avanti, non ti senti felice di entrare, cazzo, quelli sono gli amici bastardi. Ormai il canale 5 è tutto quanto spento, ormai non si affacciano gli amici. Avanti. Una buonasera. Evidentemente non c'è palle, non c'è pallino, non c'è niente, non c'è un cazzo. E quelli che si sentono forti si intassano dei miserabili. Fanno paura al canale 5. Comunque vi ringrazio, buon correnti, buon tutto e salutoni belli a tutti, a tutti gli attortoni e a tutti i prescioni, a tutti i potenti del giorno della Bipamia, che tutte le feste ci porta via. Salutoni belli, buon tutto, cuore da parte mia. Attenzione, binario 5, se ascoltate a mia, cambia basso. Non c'è nessuno che ascolta a mia, cambia. Binario 5, attenzione, binario 5. Binario 5, binario 5, binario 5. Attenzione, binario 5, binario 5, se ascoltate a mia, cambia. Avanti, binario 5, binario 5, binario 5. Tu sommi, mercifica da verdi. E poi c'è... Non ho avuto mai paura di nessuno. Perché la mia paura l'ho avuto sempre dentro le scarpe. E le scarpe mi erano condotto alle persone che sono grandissimi militari di tutti. Perché dietro il microfono le persone lo vedono lì. Bello, vedersi in verticale, parlare, volta a volta. E sentire chi si sente delle certe cose. Se c'è dei problemi, mi lo dici. Io abito in via Monte Grappa, numero 3. Perché tu non me l'hai dato. Dammi il tuo indirizzo, io vengo a trovarti. Non me lo dici. Evidentemente ti senti... che posso dire, dirti mamma non ne hai, papà non ne hai, a dirti passato è troppo, capito? Io abito in via Monte Grappa numero 3, altro non ti posso dire. E quando vieni in via Monte Grappa non sai che ti trova fitta, perché non parli? Ma io papà. Allora, andiamo sul binario 5, c'è qualcuno c'è in ascolto, dai. Cazzo, l'epifania, tutte le feste ci portano. Attenzione, binario 5. Va bene, no? Oggi in poi facciamo una cosa. Con ascolto, tutti quanti quelli che sono uomini sul binario 5. Farò il mio dovere, lo faccio avanti. E non mi faccio parlare, non faccio parlare a nessuno. A cuore dei Sassari, oltretutto non faccio parlare a nessuno. Avanti, che sei? Ok. America. Dopo che tu non l'hai confermato, sì. Ehi, avanti! Ehi, avanti, coglione! Ehi, figlio di puttana, avanti, vieni! Ehi, avanti, se mi ascolti, non te ne ascolti, dai! Non ci sono problemi, cazzo, da parte non ci sono problemi! No, se mi stai ascoltando, vai, sei un bastardo! Quelli sono le amiche bastardi. Infatti è capace la cosa che qualcuno avanti la farà basta più. Fate sentire il cazzo, non è solo contro intendermi.

sentito. Ci sono problemi, quello è l'ultimo che stai facendo. Il negozio che hai fatto è l'ultimo che stai facendo, capito? Se c'hai altri problemi, non lo so. Magari stai trovando il letto freddo. Thank you.